Ta-tam. Insomma, Oh, per carità. Ma nati che e alla fine è finita anche un tuo papà. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Riconosciuta comunque Rihanna, che ha festeggiato la gioia mondiale con i giocatori della Germania campione, ha immortalato su Twitter e Instagram i festeggiamenti in discoteca che sono durati fino all'alba, tutti scatenati. Chissà se la bella Rihanna avrà seguito la regola dell'in out, si chiama così la regola, il suggerimento per limitare i danni da stress acustico. È molto semplice, in sostanza ogni 90 minuti si esce per un quarto d'ora per disintossicarsi, diciamo così, le orecchie. Voi la conoscete, ma soprattutto la applicate. 800 24 00 24. Ma noi lasciamo le orecchie di Rihanna al loro destino e oggi ci occupiamo delle nostre. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa? Sarà capitato anche voi di sentirvi un po' rintronati dopo un concerto o una serata in discoteca, di far fatica a sentire i discorsi dei vostri amici in un ristorante molto rumoroso? Sarà capitato anche a voi di essere messi KO da un'otite improvvisa e violenta al punto da farvi rinunciare a tuffi e bagni in mare, o di fare i conti con quella sensazione di ovattamento, meglio conosciuto come orecchio tappato, quando salite in quota? Tutto questo però si può evitare o limitare sensibilmente, a patto che impariamo oggi a prenderci cura delle nostre orecchie per evitare le situazioni a rischio e soprattutto, questo è importante credo, riconoscere per tempo eventuali segnali di sofferenza che potrebbero trasformarsi in emergenza. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Sandro Burdo, medico audiologo e consulente audiologo degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Dottore, oggi noi andremo dove ci portano le nostre orecchie, quindi seguiremo le nostre orecchie in vacanza, mare, montagna, viaggi in aereo, ma anche immersioni. Ma prima di partire, dottore, mi faccia capire se ci sono delle orecchie più a rischio di altre, perché magari i diretti interessati non lo sanno e quindi potenzialmente sono più a rischio. Forse a rischiare di più sono gli uomini, perché secondo uno studio presentato al congresso americano di otorinolaringoiatria, i risultati dimostrano la maggiore fragilità dell'orecchio maschile. Infatti gli autori della ricerca, analizzando test audiometrici di 5.290 persone per l'esattezza tra i 20 e i 69 anni, si sono accorti che il 13% soffre di perdita dell'udito indotta dal rumore, ma soprattutto che negli uomini il rischio è 2,5 volte superiore a quello delle donne. Dottor Burdo, così si spiegano tante cose. Si spiegano delle cose e ci fanno anche capire, mi permetta di dirlo, che noi italiani siamo arrivati prima, perché bravo, la nostra Franca Merluzzi negli anni 80 pubblicò una casistica simile in cui dimostrò appunto che i maschi si ammalano di sordità più frequentemente rispetto alle femmine. E la motivazione che fu data allora e che vale tutt'oggi è che i maschi sono a maggior rischio sia per esposizione al rumore facendo dei lavori che sono sicuramente più rischiosi da questo punto di vista, sia per abitudini di vita che sono meno salutari, vedi fumo, vedi alcol, piuttosto che rispetto a quello alle abitudini delle femmine. Non solo, ma aggiungiamo anche, e questa è una cosa nostra, da una ricerca fatta negli anni 80 in cui a Milano c'era un fermento audiologico fantastico, che il tronco dell'encefalo, ovvero il gambo che sostiene il cervello, ha una velocità di conduzione del suono in quel tratto più rapido per le femmine rispetto ai maschi. E questo che cosa sta a significare? Sta a significare che l'uomo ha, il maschio ha un udito diverso rispetto a quello delle femmine e che le femmine elaborano il suono in un modo più rapido. E quindi migliore. Quindi sì, migliore, adesso non esageriamo. Mi io sto dicevo, allargando. Brava, io alle mie collaboratrici ai tempi dicevo perché non ci pensano, per quello più veloce, però in realtà c'è questa differenza di genere che è abbastanza importante, tant'è che le tabelle INEL, per dire, che noi usiamo tutt'oggi per la medicina legale, tengono conto di queste variabili. È importante ovviamente... Detto questo, controllare l'udito, certo. Perché l'udito, l'udito tutti, sì, ci si dimentica che il suono e l'udito è la benzina del cervello, se non c'è benzina il cervello lavora poco, questo è il concetto. Allora, a proposito di controlli di benzina, un po' come si fa con la nostra macchina, sarebbe utile ogni tanto fare un controllo del nostro udito, perché è proprio un senso che è essenziale per il nostro benessere, come anticipava il dottor Burdo, mentale ma anche fisico. Allora, nell'attesa che voi, care amiche, perché noi donne ci controlliamo un po' meno degli uomini, ho letto questa ricerca che noi donne iniziamo a controllare, a pensare al nostro udito dopo i 60, pensiamoci prima, e quindi nell'attesa che le nostre amiche e i nostri amici entrino un po' nell'idea di controllarlo, abbiamo pensato di invitarvi a giocare. Provate a riconoscere i suoni che Carmelo Lauricella tra poco manderà dalla regia. Premetto e sottolineo, questo non è un gioco, non ha alcun valore diagnostico naturalmente, ma potrebbe metterci un po' una pulce nell'orecchio, come si dice. Allora, sentite, decifrate e chiamate, e naturalmente al primo ascoltatore che indovinerà tutti i suoni apriremo la biblioteca di cuore e denari. (0024) provate a chiamarci e a indovinare i suoni che avete appena sentito. Siamo quello che sentiamo, dottor Burdo. Le ricerche d'Anne hanno indagato la relazione tra udito e le funzioni cognitive, i dati non mancano su questo aspetto. Assolutamente, c'è tra l'altro in questo momento una specie di moda tra i ricercatori, iniziata da un tale che si chiama Lynn di Boston, che ha dimostrato una netta correlazione tra demenza e ipoacusia, ovvero chi è destinato a purtroppo a diventare demente accelera la progressione della malattia se è anche sordo. Questa, quindi è importante controllare l'udito e risolvere soprattutto il problema dell'udito non solo per l'ascolto quotidiano ma anche per le funzioni cognitive future. Ecco quindi che già nell'età media è fondamentale controllare l'udito proprio per prevenire questi disturbi, non solo quelli uditivi ma anche quelli cognitivi. Andiamo subito ai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800240024. Fabrizio, buongiorno, ci chiama da Roma. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Io ho 44 anni e da quando avevo circa 15 anni ho avuto sempre una piccola sensazione di sentire un po' di meno a sinistra. E la cosa poi piano piano nel tempo è stata molto sottovalutata anche dai miei genitori, devo dire, e poi andando avanti facendo delle prove audiometriche effettivamente ho visto che c'era una perdita circa il 50%. Quello che però ho notato e che volevo chiedere era che ho notato una correlazione tra quello che mangio e la possibilità che questa perdita si riduca o aumenti. Nel senso, forse una intolleranza al glutine, forse una sensibilità al glutine o comunque i periodi in cui mangio fra virgolette meglio, mi rendo conto che questo fenomeno è anche un po' più ridotto e c'è anche un piccolo acufene a sinistra, fra l'altro, che aumenta e diminuisce anche in relazione a questo, sembrerebbe. Volevo chiedere se c'è questa possibile relazione tra udito e eventuale intolleranza. Dottor Burdo. Sì, certo, ne avevamo già parlato e mi fa piacere questa domanda perché è disattesa. Vede che lei si ricorda, dottor Burdo? Si ricorda le cose che ci dice qua a Radio 24, vede? Beh, perché siamo indimenticabili. Non solo, ma le mie funzioni mnemoniche sono ancora attive nonostante l'età. Allora, ricordo bene questo. Sì, no, ovviamente c'è una correlazione, io dico ovviamente, ma non è molto noto, sì. C'è una correlazione che provoca appunto una fluttuazione dell'udito in relazione alla assunzione di determinati cibi. Ricordo i crostacei come tra i principali imputati, ma anche tutta la frutta secca, tipo le noccioline, sì. La cioccolata, il caffè, ecco, queste sono generalmente le cause principali di udito fluttuante. Il paziente l'ha descritto, il signore l'ha descritto perfettamente, aumentare e diminuire dell'udito associato a un acufene. L'acufene insorge perché l'udito in quel momento si viene irritato, e l'acufene è sempre un segno di irritazione dell'apparato uditivo, quindi è un campanello d'allarme. Compare l'acufene, si sente l'orecchio pieno, diminuisce l'udito perché ha mangiato qualcosa. Il consiglio ovviamente è di stilare un elenco dei cibi che lui ritiene responsabili di questo e di evitarli. Allora, restate quindi con noi se soffrite di otiti frequenti, se ne soffrono i vostri bambini, se quando salite in aereo al momento dell'atterraggio vi si tappano le orecchie, avvertite dolore, se vi disturba anche un prurito che si riattiva in occasione di bagni e di tuffi. Se a proposito di tuffi voi fate proprio delle immersioni, restate con noi perché chiederemo al dottor Burdo delle indicazioni. Intanto 800 24 00 24, ma dottor Burdo, vorrei leggerle anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 349 238 6666, come quello di Antonella che ci scrive che ascolta Radio 24 quasi 24 ore su 24, usa gli auricolari dell'iPhone e ci chiede se è rischioso per il suo udito questa esposizione continua. L'udito si ammala se il suono è continuo per 8 ore al giorno oltre una certa intensità. La parola non è un suono continuo perché noi dobbiamo prendere fiato tra una parola e l'altra, e quindi in quel momento l'udito di chi ascolta riposa. Diciamo che è difficile diventare sordi con la voce, è molto più facile se il suono invece è continuo, come non so, il tramviere è destinato ad avere dei problemi di udito se il tram provoca un rumore continuo e costante per 8 ore al giorno, certo. L'aviatore pure e così via. Quindi Radio 24, che è una radio parlata, non può fare che bene. Fa solo bene. Allora, solo bene. Raffaele ci scrive: per favore fate un po' di chiarezza su qual è il giusto, il metodo di pulizia, perché si sentono tante cose da pubblicità, farmacie, è sentito dire, ma non si sa molto, perché Raffaele sente poco le puntate di Cuore Denari dove viene il dottor Burdo, perché questa è una domanda classica di ogni puntata in cui parliamo di orecchie. Arriva la puntata la domanda sulla pulizia delle orecchie e sul cerume. Dottor Burdo, un classico. Ricordiamo che il cerume è una sostanza utile, non è una sostanza inutile o dannosa, che serve a mantenere un po' viscido l'acuto del condotto in modo da evitare l'intrusione, l'entrata di insetti, per intenderci, funziona come la carta gommosa che si usava una volta per le mosche, e ha la funzione quindi di protezione del condotto uditivo esterno, che è molto delicato. Noi produciamo continuamente cerume che passa dalla parte più interna con delle piccole ciglia, viene spostato nella parte più esterna. Se noi usiamo i bastoncini non facciamo altro che rimandare indietro ciò che la natura manda in avanti. Certo. Quindi le orecchie vanno pulite all'orifizio, non all'interno, come si faceva una volta con l'angolino del fazzoletto, sì. E non si deve entrare assolutamente nel condotto uditivo esterno, soprattutto nei bambini. Perché parlando di orecchie non può non venirci in mente un oggetto che con le nostre orecchie ha molto a che fare, spesso per molto tempo nel corso di una giornata. Naturalmente sto parlando del telefono cellulare, che bisogna saper usare nel modo giusto e nei tempi giusti, per la salute delle nostre orecchie in primo luogo, e poi per la salute delle nostre tasche e della nostra bolletta. A volte, soprattutto in vacanza e quando si va all'estero, dal conto del cellulare possono arrivare sorprese molto salate. Se è successo anche a voi, raccontatecelo. Qual è la bolletta più salata che avete ricevuto e che cosa è successo? Avete esaurito il credito dall'estero per pochi minuti di telefonata? 800 24 0024. Per fortuna, per quanto riguarda il roaming dai paesi dell'Unione Europea, ci sono delle buone notizie. Musica per le nostre orecchie, mi verrebbe da dire, ma ne parliamo a partire dalle 12 con i nostri esperti. Chi è? Orecchio. Ah, dottor, c'è un po' di cerume dentro l'orecchio, non c'è sede. Bene, vediamo un po'. Ammazzo, chiami cerume, questo è fango. Tu sei sordo. Ah, dottor, ma orecchio mica è questo. È quest'altro. Dici? Vediamo. Dai, è peggio. Lavaggio. Lavaggio. Col sapone. Allora, dottor Burdo, c'è un dolore che arriva improvviso e violente, può mettere in crisi le nostre orecchie e le nostre vacanze. E l'otite, che come la Befana, spesso arriva di notte. A farne le spese sono soprattutto i nostri bambini, ma anche i genitori dei bambini, insomma anche agli adulti può capitare di avere di venire a che fare con l'otite. E in estate sembra che il rischio diventi più alto. La colpa dei bagni, dell'acqua che finisce dentro le orecchie o c'è dell'altro? Che cosa succede? Ma dottor Burdo, io vorrei che lei ci desse anche delle indicazioni molto semplici per capire se si tratta di un'otite esterna, ossia un'infezione acuta del condotto uditivo, o di un'otite media. Perché io aggiungerei un terzo concetto. Sì. Perché il dolore all'orecchio può essere anche un'otodinia, scusate il termine, ma è così, che va diversificato dal dolore che viene definito dalla otalgia. Allora l'otalgia, il mal d'orecchio, è quello delle otiti, o esterna o media. Sì. Ma esiste un terzo dolore, che è quello dell'otodinia, provocato da un'infiammazione dell'articolazione temporomandibolare. Eccola. Quindi dall'articolazione. E come facciamo a distinguere questi due tipi di, esatto, dolore? Allora, l'articolazione temporomandibolare, basta premere con l'indice sull'articolazione, mm-hmm, e se fa molto male vuol dire che il dolore viene da lì. Generalmente questo colpisce le signore, giovani. A me fa già male anche se non ho mal d'orecchio. Come mai? Brava. È un po' di tensione. È una tensione, è legato al bruxismo notturno. Anche Carmelo Lauricella. Siamo qua tutti tutti dolenti. Ci ha fatto mettere le dita lì e siamo... Un male terribile. Questa è tensione milanese. Tensione milanese porta a bruxismo notturno, quindi digrignare dei denti notturno. Si serrano durante il sonno molto forte le mandibole e questo provoca un'alterazione dell'articolazione, addirittura si può arrivare alla frattura del disco proprio dell'articolazione, come se si rompesse il menisco del ginocchio. Sì, ne abbiamo parlato di serramento e di bruxismo proprio con un medico neatologo e con Ernesto Di Pietro, che è un osteopata. Allora, questo provoca un dolore acuto, proprio una fitta, come una coltellata per intenderci, e la diagnosi la facciamo in questo modo. Sì. La diversifichiamo dal resto perché se invece siamo colpiti da un'otite esterna, l'otite esterna non è altro che l'infiammazione della cute del condotto uditivo. Sì. È molto delicata, entra dentro dell'acqua sporca, magari c'è un po' di cerume che la fa ristagnare, si infiamma e la riconosciamo, ci premiamo con l'indice il trago, cioè quel pezzettino di cartilagine che difende l'orecchio anteriormente. Sì, quella specie di porticina del condotto uditivo. Brava. Se noi chiudiamo la porticina sul condotto, sì, e ci fa male, allora è un'otite esterna. Se invece il dolore non aumenta sia premendo il trago sia premendo sull'articolazione, allora è un'otite media, cioè la classica catarro dentro l'orecchio che si è, sì, infiammato. E voilà. I bambini ne soffrono, c'è un allarme anche perché molti genitori danno gli antibiotici per curare l'otite, ma poi appena il dolore scompare l'antibiotico non si dà più. Questo è un rischio potenziale per aumentare la resistenza agli antibiotici, dottor Burdo. Sì, aumenta la resistenza, aumentano le spese, diventa tutto un pasticcio. Quindi, allora, la maggior parte delle otiti sono otiti virali. E contro il virus, così come per il raffreddore, ci sono poche cose che servono, ma le cose che servono dobbiamo ricordarcele, e cioè il caldo. Il caldo uccide i virus. Per cui se noi abbiamo un'otite acuta, quelle che si facevano a volte su fumigi che scaldavano il viso del bambino con l'acqua calda, ci si mette con il pentolone sotto il naso, con l'asciugamano sulla testa, si respira il vapore molto caldo e questo dilata la tuba e permette la fuoriuscita del catarro dall'orecchio. In altre parole, l'obiettivo è la candela al naso. Se noi riusciamo i nostri figli a far venire la candela, li guariamo dall'utite. Fantastico. Perché vuol dire che il naso sia liberato. Questo è un consiglio da ricordare e da seguire, perché i bambini, e possiamo seguirlo anche quando mal d'orecchio viene a noi. Brava. Ecco. Poi il dolore, poi c'è anche il dolore immediato, lì bisogna mettere le gocce. Sì. Le gocce generalmente sono delle gocce nell'orecchio che vanno prima scaldate, ricordiamocelo. Non scaldate, fate bollire. Sì, ecco, non troppe, perché sennò si manda, si cuoce direttamente il timpano. Cioè, allora, bagnomaria finché non arrivano alla temperatura ambiente, perché la goccia fredda su un'otite fa un male terribile. Mm. No, non solo fa poco, fa ancora peggio. Quindi le gocce. Supponiamo che siamo di notte e le farmacie sono chiuse, non abbiamo le gocce in casa per il bambino. Usiamo l'olio d'oliva come si usava una volta. Si scalda un po' di olio di oliva e si mette l'olio tiepido nell'orecchio finché al mattino non apre la farmacia. Quindi poche goccine, temperatura ambiente, mi raccomando, con l'olio non in frittura. Ecco. Sì. Dottor Burdo, voglio salutare il professor Monfrecola, che è in linea con noi, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Che ci aiuterà a capire come venire a capo di quel prurito che alcune persone avvertono all'interno dell'orecchio e che si riattiva proprio a contatto con l'acqua, proprio una sorta di dermatite da contatto, possiamo definirla così, professor Monfrecola, proprio come solo definizione, perché torniamo subito dopo a parlarne dopo i mercati. Sì, sicuramente possiamo definire una dermatite da contatto, anche se poi ci sono altre dermatiti che possono essere confuse con la dermatite da contatto dell'orecchio. Cuore e denari. Per fare certe cose ci vuole orecchio. Bisogna avere orecchio. Bisogna controllare anche il nostro udito. Ne parliamo oggi con il dottor Burdo, che è in linea con noi. Tra l'altro, a proposito di udito, dal 1 luglio chi va in vacanza in Unione Europea potrà sentire parenti e amici a tariffe più convenienti. Questo sarà il tema che affronteremo nella seconda parte della trasmissione. Ci raggiungerà l'avvocato Francesco Luongo, che è vicepresidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino, per cui se volete sapere tutte le novità sul roaming, questo è il momento già di intervenire per i vostri interventi. Ma in linea con noi abbiamo anche il piacere di avere il professor Giuseppe Monfrecola, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli, a cui vogliamo chiedere un consiglio per quel disturbo, professor Monfrecola, che è abbastanza frequente in estate, che avvertiamo all'interno dell'orecchio ed è una sensazione simile a prurito e bruciore. Spesso si riattiva con l'acqua, quando ad esempio facciamo la doccia dopo il bagno, l'acqua resta nel condotto e veramente diventa molto fastidioso, quasi come se avessimo una ferita. Che cosa si può fare? Lei ha anticipato, potrebbe, ha messo il condizionale, essere una dermatite da contatto. Professor Monfrecola. Sì, potrebbe essere una dermatite da contatto, significa che il soggetto è particolarmente sensibile, ha una cute sensibile, potrebbe essere però una dermatite seborroica, potrebbe essere il segno di una psoriasi minima, quindi tutte malattie che hanno di base un arrossamento, una certa desquamazione, e come giustamente dice lei, con l'acqua di mare, quindi con il sale, con lo strofinio casomai di un asciugamano, la cosa potrebbe accentuarsi. Ora è evidente che il fai da te non è mai una buona cosa, perché? Perché dobbiamo comunque escludere che non ci siano delle sovrammissioni batteriche o micotiche, ma una volta che siamo certi, perché il soggetto lo sa, ha un po' di forfora ai capelli, ha già sperimentato queste cose, quindi è possibile che si possa trattare appunto della dermatite seborroica. In quel caso lì, ecco, procedere poi a dei trattamenti che possono essere consigliati dal medico curante, dall'otorino, dal dermatologo. Sì. Quali sono le terapie che vengono suggerite? Non voglio invitare i nostri ascoltatori al fai da te, ma indicativamente quali sono? Allora, indicativamente possono essere delle più banali, le creme emollienti per esempio, esatto. Quindi creme che non siano assolutamente, contengono assolutamente dei principi attivi di tipo farmacologico. Già questo può essere utile per ripristinare un normale epitelio e quindi far fronte a quei disturbi che lei diceva. È chiaro che se la situazione dovesse persistere, il consiglio del medico andrà verso creme che casomai possono essere cortisoniche o cortico-antibiotiche o altro ancora, da applicare per brevissimi periodi di tempo fino a portare tutto quanto a una condizione di normalità e continuare poi con gli emollienti. Ovviamente un'adeguata igiene che non deve essere mai forzata, non bisogna mai esagerare poi con appunto... Sì, il dottor Burdo ha già risposto ad un ascoltatore che via SMS ci chiedeva di spiegare esattamente come si lavano le orecchie. Questo è un classico, una domanda proprio di rito quando affrontiamo questo tema. Intanto, professor Monfrecola, io la ringrazio e le auguro buone vacanze. Buone vacanze a lei e a tutti. Arrivederci. Dottor Burdo, lei mi sente? Sì. Abbiamo Massimo da Lecce, poi Rita da Napoli e poi vogliamo andare in vacanza, portare le nostre orecchie in montagna, al mare le abbiamo in parte portate, ma ci sono degli ascoltatori che vogliono chiedere a lei, soprattutto gli apneisti, metodi di prevenzione legati a questa disciplina. Allora, Massimo, buongiorno da Lecce, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno Massimo, da una splendida città. Fantastica, splendida, invito tutti i suoi ascoltatori a visitarla perché è in vero. Questo momento è ancora più bella. È ancora più bella. Allora Massimo, siamo pronti? Mi dica lei, nel senso che io sono lieta di sentirla, come si dice, mi hanno segnalato dalla regia che lei ha provato a indovinare i suoni che abbiamo trasmesso. Guardi, io, così come ha detto la sua collega in regia, ritengo di avere un udito sopra al normale. Oh, per carità, un super udito? Sì. Dottor Burdo, se mi posso permettere, racconto una cosa. Quando ero piccolo, riuscivo a capire dove mia mamma nascondeva i soldini, sì, semplicemente rimanendo a 10-15 metri da lei nel mio appartamento e ascoltando i rumori che lei faceva nel nasconderli. Sì. E io ripercorrevo la strada e riuscivo ad andare come se avessi visto il posto dove mia madre andava a nascondere i soldi. Quindi diciamo che mi sento da questo punto di vista super dotato. Super dotato, dottor Burdo! Potrei fare delle battute, non le faccio. No. In realtà, molto probabilmente si parla di orecchio assoluto in questo caso, sì. Cioè esistono delle persone che sono in grado di ascoltare, attenzione, ascoltare si apprende oltre a essere dotati di un buon udito, imparano ad ascoltare suoni e diversità tra suoni che l'uomo comune non riesce a fare. E Mozart aveva un orecchio assoluto che poi lui ha allenato e è venuto fuori quel che lui è venuto fuori. Sì. Esatto. Meno male che l'ha fatto, che gli è venuto in mente questa cosa di allenarsi. Certo, ma ci sono ci sono delle persone che sono già dotate di un orecchio assoluto che quindi sono in grado di sentire meglio di tutti gli altri. E Massimo, probabilmente, Massimo super dotato, ha l'orecchio assoluto e vive in una città straordinaria. Massimo, non so se si è misurato con i suoni che abbiamo trasmesso, magari tra poco chiediamo a Carmelo Lauricella di rimandarceli perché vorrei andare a Napoli. C'è Rita, buongiorno Rita. Buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo porre al professore una domanda, nel senso che mi sono stati diagnosticati dei volgarmente detti calcoli all'interno dell'orecchio. Sì. E degli esercizi vestibolari per distruggerli, diciamo. Sì. Volevo sapere, siccome questi esercizi chiaramente mi portano dei disturbi non indifferenti, ma che esercizi deve fare? Devo buttarmi a destra e poi a sinistra, il che mi provoca delle vertigini fortissime. Ho capito, ho capito Rita, calcoli o sassolini, dottor Burdo? Sì, che sono usciti otoliti che sono usciti dalla loro sede e quindi con quei movimenti vengono riportati nella giusta sede, come rimettere a posto la ghiaia in un giardino. Quindi con i movimenti si riportano gli otoliti sul pavimento della cellula in cui sono inseriti. Quando questi otoliti, questi sassolini come li chiamo io, escono dal loro posto, possiamo avvertire delle sensazioni molto fastidiose che assomigliano un po' alla vertigine, giramento che di testa, vero? Che sono vertigini, sono vertigini posizionali, cioè sono legate al movimento del capo, durano pochissimo, cioè qualche secondo, proprio il tempo in cui il sassolino è fuori sede, per intenderci. Se durano invece dei minuti non sono otoliti, sono altre cose, sono labirintiti, piuttosto che il disturbo da otolita dura pochissimo ed è legato alla posizione del capo. È istantaneo e per questo l'otorino di Rita le ha suggerito questa manovra che solitamente viene effettuata da personale specializzato, no? Generalmente, anzi, è meglio farlo fare da personale specializzato perché il sintomo è comune anche ad altre malattie. Molto comune è l'otolita, cioè si chiama cupololitiasi, chi conosce il greco capisce che vuol dire che c'è un abbandono dei sassolini del litos dalla cupola della cellula, però può essere il sintomo, può anche manifestarsi per altre patologie, quindi ci vuole una diagnosi e la diagnosi e la terapia deve essere fatta da un medico, secondo me. Assolutamente. Dottor Burdo, abbiamo detto che volevamo portare un po' le nostre orecchie in giro con noi e ci siamo occupati di mare, però sono tante le persone che hanno scelto anche solamente per una gita fuori porta di andare in montagna ed è facile quindi quando si sale le orecchie che si tappano, una sensazione di ovattamento che alcune persone riferiscono anche quando sono in aereo. Dottor Burdo, è fisiologico questo, ma quando questa sensazione diventa un segnale invece di qualche cosa di più serio? Molte persone confondono l'orecchio tappato che è legato alla tuba chiusa. Tutto funziona in questo modo. Il timpano, che alla fine del condotto uditivo esterno, è una membrana che è mantenuta nella sua posizione dalla pressione esterna che proviene dal condotto e da una pressione interna che proviene dalla tuba. Se la tuba si chiusa, e la tuba è quel canale che mette in comunicazione l'orecchio con il naso, se la tuba si chiude viene a mancare la pressione interna, quindi prevale la pressione esterna, il timpano viene introflesso, quindi viene portato verso l'interno e abbiamo la sensazione di orecchio chiuso. Molte persone però confondono questa sensazione, cioè quelli che lei ha ricordato sentono questa sensazione anche in pianura, sì. Confondono questa sensazione con la sensazione della sordità, cioè chi è un po' sordo sente l'orecchio un po' chiuso, ma in realtà non è chiuso, è solo un po' sordo. Ecco il motivo per cui è necessario, soprattutto se persiste d'estate e in pianura questa sensazione, fare una valutazione specialistica, perché è probabile che questi pazienti non abbiano la tuba chiusa ma siano un po' sordi. Cuore e denari. Vi invitiamo a giocare e a riconoscere questi suoni e a chiamare il nostro numero verde. Oggi parliamo di orecchio, di udito, di vacanze insieme al dottor Burdo in linea con noi. Abbiamo il piacere di avere Roberto che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie del benvenuto. Grazie a lei. Io volevo chiedere al dottore qual era il metodo migliore per proteggere l'udito dagli spari quando si è più rossegno, visto che la frequenza degli spari è abbastanza elevata, quindi cosa lei è meglio, le cuffie, i tappi, tutti e due? I tappi o le cuffie? Roberto, ogni quanto lei va al tiro da segno? Tutte le settimane, anche più volte. Anche più volte. Dottor Burdo, forse perché la frequenza è indicativa. L'esposizione, qui si tratta non tanto la frequenza, qui si parla proprio di intensità, perché abbiamo detto che ci si ammala di sordità per il rumore se il suono ha una certa intensità per un certo periodo di tempo. Quindi se noi aumentiamo molto l'intensità, diminuiamo il tempo e il danno è medesimo. Per cui lo sparo è un suono molto intenso, una vibrazione velocissima, che quindi anche uno sparo può far diventare sordi. E quindi a Roberto, che mi sembra che non voglia continuare comunque a sparare, che cosa può fare? La protezione migliore sono le cuffie, i tappi no. I tappi non riescono a mantenere livelli di intensità, diciamo, non di pericolo. La cuffia è la più idonea a proteggere l'udito con gli spari. Invece, dottor Burdo, a proposito di tappi, ascoltatori ci chiedono se l'utilizzo dei tappi è sicuro, soprattutto per le persone che dormono con i tappi per schermarsi dal rumore. Ma io ricordo che lei, a proposito dei tappi, ci aveva detto una cosa curiosa, e cioè che portando i tappi più volte a lungo il condotto si allargava un pochino, è vero? Mi ricordo bene? Più che allargarsi, lei con il tappo, proprio si chiama tappo, non permette la fuoriuscita del cerume e quindi provoca un ristagno di cerume dietro il tappo e da qui infezioni piuttosto che le cose. Allora l'orecchio dovrebbe essere lasciato libero, questo è il punto, perché qualsiasi cosa noi mettiamo all'orecchio, teniamo presente anche che la cute è molto sensibile, quindi possiamo anche provocare una reazione allergica, una dermatite da contatto, come abbiamo ricordato prima, dal tappo. Non solo, ma il tappo, soprattutto nel bambino, non nell'adulto, perché nell'adulto la struttura cartilaginea è già diventata ossea, quindi è difficile che si larghi il condotto, ma nel bambino si può allargare la parte iniziale del condotto. I bambini ovviamente non usano i tappi, però... ma il tappo può provocare danni alla cute e può provocare un ristagno di cerume. Quindi la sua indicazione è molto chiara. Sì. Ecco, direi non usarli. Dal cocuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci. Dal cocuzzolo della montagna. Dal cocuzzolo al mare del nord, dove si trova un nostro amico e un vostro amico, un vostro beniamino, Simone Moro. Ciao Simone. Ciao Elisabetta. No, Nicoletta. Nicoletta, sì, Nicoletta Carbone, sì, vai, sono fuso. Lo so. Il mare del nord, cambiano le pressioni anche a livello cerebrale, si confondono i nomi. Senti, no, perché Etta è facile confonderlo. Simone, sai che stavamo pensando, perché bisogna avere gambe, braccia, cervello, ma soprattutto orecchie e buon udito per essere un alpinista? Sì, ci vuole, anche perché poi l'orecchio, continuando a portarlo in alto, poi portandolo in basso, poi portarlo in alto, poi in alto, in basso, lo si maltratta anche un po', e quindi bisogna tenerlo da conto, anche perché, come avrà spiegato il vostro super esperto, là nell'orecchio, anche là dietro, le trombe di Eustachio sono quelle che mi danno anche l'equilibrio, e quindi è meglio non perdere l'equilibrio in montagna. Quindi, contrariamente a quanto si pensa, non servono solo muscoli in montagna, ma l'orecchio è uno degli organi più importanti, anche perché poi sei in una situazione di silenzio inusuale, che a differenza di quella schermata come parlavate adesso, quando uno si mette i tappi, lì invece senti il silenzio vero. Parlo di sentire qualcosa, il silenzio che in teoria uno pensa che non la si senta, invece nel silenzio totale, assoluto, oltre che sentirti la tua frequenza cardiaca, sentire che sei vivo, sentire quindi anche la contrazione del diaframma quando respiri, è importante avere, come si dice, le orecchie tese per percepire i pericoli, i rumori della neve, i rumori del ghiaccio quando picchi la piccozza. Quindi insomma è un organo fondamentale anche per chi va in montagna. Senti, tu le tue orecchie, diciamo, le hai portate un po' ovunque, no? Dalla montagna al mare, passando per la tua passione, l'elicottero. Ci sono tanti nostri ascoltatori che chiedono consigli, come l'ascoltatore che abbiamo sentito poco fa, che chiedeva al dottor Burdo delle precauzioni. Lui ama sparare, quindi va al tiro a segno e ha chiesto dei consigli. Allora io vorrei dare delle indicazioni con te, con il consenso e il placet del dottor Burdo, perché il dottor Burdo ci ha già dato delle indicazioni per chi avverte il tapparsi delle orecchie non solamente in montagna ma anche solamente quando è in campagna, a casa, abitualmente svolge la sua vita normale, quello può essere un segno di pericolo, ma per chi sale a orecchie buone bisogna compensare. Simone? Sì, allora la compensazione è più per chi fa le immersioni, infatti come si scende, man mano si scende nelle profondità, aumentano le pressioni e quindi è fondamentale compensare, altrimenti il dolore diventa insopportabile, ma a parte il dolore poi anche i danni che si possono provocare al timpano sono molto forti. Viceversa, quando vai in montagna, siccome cambiano le pressioni, se si scende nell'acqua aumentano e se si va in alta quota la pressione parziale dell'ossigeno diminuisce e quindi anche per mantenere equilibrate le pressioni interne del corpo umano l'orecchio agisce di conseguenza. Non a caso anche i gas contenuti nel corpo, sia di digestione che altri, si possono espandere molto di più in alta quota. Questo esempio è una reazione normale, uno dice mi sembra di sentire gonfia la pancia, ecco, non è successo niente, cambiando la pressione parziale dell'ossigeno, salendo ovviamente i gas all'interno possono dilatarsi di più. Ecco perché l'orecchio funziona da regolatore, quindi quando uno va in montagna si tappa le orecchie non si deve allarmare. Di solito sbadigliando passa, no? Facendo finta di sbadigliare o deglutendo. Ci sono anche diverse tecniche, c'è chi si tappa il naso e soffia, può essere un po', diciamo, per chi non è abituato può essere un po' più pericoloso, tra virgolette, è sempre meglio farlo a tapparsi il naso e ma sai che, sentire Simone Moro che dice alla radio che tapparsi le orecchie può essere un po' pericoloso, dottor Burdo, viene da sorridere. Ma fa anche piacere, perché è vero, ci sono delle persone che aumentano la pressione nell'orecchio creando proprio dei danni, quindi una pressione positiva all'interno dell'orecchio che non deve essere, che non ci deve essere, quindi il consiglio è assolutamente corretto. Bravo, da un Simone Moro che noi stimiamo e vorremmo sempre collegarci con lui, ma io quando tutte le volte che dico ma proviamo a chiamarlo, chissà dov'è quell'uomo. Senti Simone, tante spedizioni, tanti viaggi all'estero, ti sarà capitato quindi di usare il telefono e chiamare a casa, no? Chiamerai anche tu? Beh, in questo momento io ti stiamo parlando in roaming, perché io sono tra la Germania e tra un po' sarò in Danimarca, quindi questo perfetto. È un classico esempio di intervista viaggiando col telefonino. Cuore e denari. Ti telefono o no? È una domanda che tanti di noi si sono posti almeno una volta nel periodo estivo, quando gli amici, figli, genitori, partner, per vari motivi sono lontani. A volte però la scelta più giusta può essere quella di non chiamare, per evitare di pagare un conto molto salato. Meglio è bene informarsi con un po' di anticipo e capire come organizzarsi a seconda del nostro piano tariffario, della nostra destinazione o quella della persona che vogliamo chiamare. Poi non dimentichiamo che i costi del telefono ormai oggi non arrivano solo dalle chiamate, dagli sms, c'è anche internet che può giocarci brutti scherzi. Allora 800 24 00 24, voi dove andrete in vacanza e come utilizzerete il cellulare? Avete messo a punto un piano tarifario particolare? Sapete già quanto più o meno vi costerà chiamare? Non ci avete invece ancora pensato? Allora fateci le vostre domande al nostro numero verde, ma raccontateci anche se vi siete trovati di fronte ad un conto più salato di quanto vi sareste aspettati e magari non avete capito bene il motivo, o pensate ad esempio che la vostra compagnia telefonica non si sia comportata in modo del tutto trasparente. Il nostro numero verde è 800 24 00 24, ma come sempre scriveteci, potete seguirci naturalmente su Facebook, su Twitter, oppure inviarci un messaggio al 349 238 6666. Casa. Hai ragione, è la casa di E.T. quella. E.T. casa telefono. E.T. telefono casa. E.T. telefono casa. E.T. telefono casa. Vuole chiamare qualche persona. Beh, lo ricordate che carino che era? Vabbè, comunque, chissà come potremmo classificarla questa telefonata di ET per il roaming intergalattico. Non credo ci siano regole precise, ma noi per ora ci accontentiamo di quelle per l'Unione Europea. In linea abbiamo il piacere di avere l'avvocato Francesco Luongo, vicepresidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino. E già ne abbiamo. Buongiorno, avvocato, da fare. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Avvocato, dal 1 luglio in tutta l'Unione vige una nuova tariffa per il roaming internazionale. Allora, torniamo a spiegare agli ascoltatori che cosa significa questa decisione. Insomma, sarà più conveniente telefonare da una parte all'altra d'Europa? Proviamo magari a quantificare questo risparmio? Sì, parliamo dell'Europa che ci piace, quella dei diritti che valgono per tutti e delle tariffe sempre più basse per telefonare o navigare in internet dal proprio cellulare da un paese all'altro dell'Unione Europea. Sì. Dal 1 luglio abbiamo un ulteriore abbassamento dei costi, parliamo di 23,18 centesimi IVA inclusa per ogni minuto di chiamata e di 7,32 centesimi, ricordiamo sempre IVA inclusa, per ogni SMS, 24 centesimi per ogni megabyte scaricato. Quindi parlare, navigare in uno Stato dell'Unione converrà sempre di più, fino all'abolizione definitiva di queste tariffe diversificate tra Stato a Stato, che ci dovrebbe essere, se tutto va bene, entro il 2015. Quindi tra poco, manca poco. Manca pochissimo, manca un anno, e speriamo che questo momento positivo dell'Europa per i cittadini europei arrivi senza intoppo alcuno, permettendoci di sentirci veramente europei. Mi scusi, avvocato, ma ogni operatore proporrà poi le sue tariffe, noi potremo scegliere quella più conveniente? Il bello è proprio questo, l'Europa, l'Unione Europea sta costringendo i vari operatori ad abbassare le tariffe ed è chiaro che i singoli operatori, anche i nostri nazionali come TIM, Vodafone, Wind, Tre Italia, stanno proponendo proprio per quest'estate tutta una serie di offerte di piani tariffari che ci permettono di avere condizioni anche migliori rispetto a quella che ricordiamo si chiama Eurotariffa, quindi delle proposte tariffarie a forfait che ci permettono di navigare con ancora maggiore serenità o di chiamare o soprattutto di ricevere telefonate, perché ricordiamo all'estero quando ci chiamano paghiamo dai 5 ai 7 centesimi anche solo per ascoltare la persona che ci sta chiamando. Avvocato, queste decisioni in merito al roaming valgono anche per il traffico dei dati, per internet insomma? Assolutamente sì, ormai le SIM solo voce stanno per essere archiviate nella storia e nei nostri ricordi, le SIM sono sempre più con traffico dati, quindi voce e dati, navigatori tramite smartphone sono sempre di più e chiaramente il roaming nasce proprio, e quindi la regolamentazione europea, sì, del roaming nel 2007 nasce proprio per far sì che si crei un mercato unico delle comunicazioni, quindi non soltanto voce ma anche dati, cioè internet, che è un motore, deve essere un motore per l'economia non solo italiana ma europea, deve essere usato liberamente e con costi accettabili da tutti per creare il mercato unico. E questo sarà possibile nel 2015? Assolutamente sì. Quindi, aspettiamo con ansia questa data. Aspettiamo, ma intanto muoviamoci con cautela, perché per una voce di spesa che se ne va ce n'è un'altra che arriva. Dal 21 luglio, quindi siamo prossimi, è lunedì prossimo, alcuni operatori faranno diventare a pagamento i servizi di avviso di chiamata. Chiariamo bene, avvocato, ci aiuti a capire di quali servizi si tratta. È quell'SMS che riceviamo quando troviamo il numero occupato? Sì, parliamo dei servizi di TIM, Chiama Ora, Chiamami, Vodafone, Recall, che prima erano completamente gratuiti e ci permettevano di ritrovare nostra moglie, la nostra fidanzata, se era impegnata in altra conversazione, di poterla richiamare non appena avesse terminato di chiacchierare. O per poi dire sei sempre al telefono, esatto, ma cosa avrai mai da dire, vero? Esatto, questo servizio utilissimo gratuito diventa purtroppo dal 21 luglio a pagamento. Per quanto riguarda TIM ci sarà una sorta di canone di 1,90 euro ogni 4 mesi, mentre per Vodafone questo servizio costerà 6 centesimi di euro al giorno, ma soltanto se il cliente ne usufruirà effettivamente. Bisogna fare attenzione perché sono servizi attivati di default all'interno dei piani tariffari dei clienti. Per questo tutti i clienti Vodafone e TIM dovranno contattare il numero verde, il numero del proprio operatore, per chiedere di, se non intendono, qualora non intendano utilizzarli, di disattivare questa opzione. E infatti ci sono molte polemiche perché anche noi come associazione riteniamo che gli SMS di preavviso che sono stati inviati a norma del codice delle comunicazioni elettroniche sono stati un po' troppo vaghi, per cui ricordiamo ai clienti Vodafone e TIM di informarsi tramite il proprio call center o il sito internet e decidere se utilizzare o meno questi servizi. Un innalzamento, una fissazione di prezzo che però rispecchia un po', Nicoletta, quello che è il mercato attuale della telefonia mobile, dimostra una difficoltà delle due aziende. Come ha chiarito l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il mercato delle linee mobili è sostanzialmente saturo. 3,5 milioni di richieste di portabilità del numero sono di clienti già appartenenti ad altri operatori, cioè gli italiani hanno ormai tutti una o più SIM, sì, per cui queste grandi aziende tendono a perdere quote di mercato. Pensiamo che su dati Agicom naturalmente Telecom Italia ha perso 1 milione di clienti e Vodafone 750.000. Ecco spiegato il perché del fissazione di prezzi per servizi che prima erano gratuiti. I margini si riducono. Andiamo a Parma, ci aspetta Tonino all'800 24 00 24. Buongiorno Tonino, benvenuto. Buongiorno a voi. Siamo qua. A voi. Anche a lei Tonino, che succede? Mi trovavo in Svizzera, avevo lasciato a casa il telefono aziendale e allora avevo due operatori, dipende cosa si possa dire, Wind e Poste Mobile. Ho deciso di telefonare con la Poste Mobile perché avevo la possibilità di ricaricare eventualmente la scheda. Sì. E mi sono ritrovato che dopo un paio di minuti mi è caduta la linea. Praticamente ho scoperto poi che mi costava 2 euro al minuto, mentre con la Wind pagavo circa 30 centesimi. E poi la Poste Mobile ha detto sì, perché Wind a Svizzera per noi non è considerata, diciamo, comunità europea. È vero Tonino. Perché uno la sente vicino, vado solo in Svizzera, ma la Svizzera non fa parte della comunità europea e quindi i costi sono stati più salati. Avvocato. Allora sì, dobbiamo chiarire un aspetto fondamentale e diciamo elementare, ma che non tutti conoscono. Il nostro bel mondo è diviso in 4 zone da un punto di vista di roaming internazionale, quindi sì, per telefonare o navigare. Abbiamo la zona UE, la zona dell'Unione Europea, dove vige l'eurotariffa di cui abbiamo parlato, con l'Unione Europea che abolirà addirittura il roaming nel dicembre del 2015 e quindi con tariffe amministrate. Ma poi abbiamo anche 3 zone, la zona 2 con paesi Egitto, Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Marocco ed altri, zona 3 Arabia Saudita, Argentina, Australia e poi una zona 4 residuale di cui fanno parte tutti gli altri paesi del globo. Quindi prima di partire, prima di fare una telefonata, ecco, la Svizzera non rientra nell'eurotariffa, dobbiamo verificare se il paese in cui ci rechiamo faccia parte di una dell'eurozona o di quale di queste 4 zone previste per la tariffazione, perché i costi variano moltissimo. Dove le troviamo? Noi andiamo a cercare il paese, come facciamo a capire in che zona appartiene? Facilissimo, semplicissimo. Tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile sul proprio sito devono mettere a disposizione del cliente una pagina in cui facilmente si va a individuare la zona di riferimento del paese. Trovate questa pagina su tutti i siti degli operatori di linea fissa e mobile ed è forse la prima cosa da fare prima di recarsi in un paese extraeuropeo, proprio perché così si evita il rischio del cosiddetto bill shock che è accaduto al nostro ascoltatore, che giustamente riteneva la Svizzera zona euro per quanto riguarda il roaming internazionale, ma purtroppo così non era. Allora, quindi mi raccomando, informiamoci sulla zona e andiamo a Graziano che ci chiama da Firenze. Subito dopo facciamo un saltino a Brescia, c'è Simone. Graziano, benvenuto e buongiorno. Sì, salve, buongiorno. C'è la mia esperienza è fresca fresca di ritorno da un viaggio a scopo umanitario giù in Venezuela, dove sono partito il 25 di giugno e rientrato il 2 di luglio. Graziano, a scopo umanitario è andato a fare il volontario? No, non sono andato, cioè volontario, più che volontario finanziatore di progetti presso un Don Bosco giù a Valencia, dove si sta facendo coltivazione organofonica, insomma, vabbè, recupero per ragazzi meno abbienti. Comunque, bello questo progetto, bravo Graziano. Il discorso è questo, io laggiù diciamo ci vado anche per lavoro diciamo con materiali a base di fibra di cocco e quindi lì mi porta a fare lavori anche di import e di attività diciamo che svolgo qui in Italia. Quindi il telefono questo, lo usa? Il telefono lo uso e conosco diciamo molto bene come funziona la cosa, difatti io sono munito di una mia linea laggiù e quando arrivo utilizzo la mia linea, mio numero locale per ovviare al discorso di roaming e menate varie, quindi sì. il numero predispongo dei trasferimenti di chiamata e tutto, quindi diciamo tutto ben organizzato. Si è tutelato in questo modo, che cosa è successo però? È successo che la prima volta sono andato laggiù con lo smartphone che tenevo diciamo spento, diciamo non utilizzavo, se non che vedevo mi arrivavano messaggi di autoricarica, cioè di ricarica, grazie a Dio ho un contratto che, sì. Con autoricarica che prevede solo due autoricariche, dopodiché se non le fai volontariamente non te ne pesca più e con 25 euro di giugno e 25 euro di luglio, diciamo me la sono cavata per ora, salvo far rivalsa, va bene? Allora, al ritorno ho chiesto, dice, come mai mi è arrivato queste autoricariche che io non ho telefonato, non ho adoperato internet, non ho adoperato navigatore, non ho adoperato il telefono? E sa, dice, c'è un accordo fra il produttore e il gestore che si scaricano i dati da sé, pagando io, cioè d'accordo lo fanno loro e noi si paga, capito? Non utilizzando il telefono. Dice lei mandi un fax di contestazione, vediamo, cioè capito? Lo farà questo fax, conviene? Ma senza dubbio, sempre comodo prima di cambiare gestore perché sicuramente... Ecco perché questa se l'è legata al dito, Graziano. Avvocato, sicuramente. Avvocato. Graziano ci fa toccare alcuni punti salienti della questione. Innanzitutto Venezuela, tariffazione zona 3, parliamo di circa 4 euro al minuto, oltre 4 euro al minuto per le conversazioni e 2 centesimi per ogni kbyte che viene scaricato sullo smartphone. È evidente che in questo caso parliamo molto probabilmente di un contratto non prepagato, quindi non per un consumatore, e il gestore chiaramente non ha attivato quelle cautele che sono invece previste, pensate, dall'autorità per le comunicazioni fin dal 2010, proprio per evitare i cosiddetti bill shock. Di recente alcuni operatori di telefonia sono stati sanzionati dall'antitrust, dall'autorità per le comunicazioni, proprio perché nei contratti tra virgolette business non avvisavano l'utente del cambio di tariffa, ma procedevano e proseguivano con gli addebiti come se l'utente avesse dato il proprio ok alla nuova tariffazione. Quindi Graziano fa benissimo a inviare il reclamo al proprio gestore, ed il proprio gestore dovrà dimostrare di averlo avvisato con SMS, con messaggio in segreteria, dovrà dimostrare di averlo fatto, di aver portato l'utente, quindi il proprio cliente, a conoscenza di questi costi. In mancanza di questa prova, il consumatore, il cliente, l'utente telefonico non deve assolutamente nulla. Allora, avvocato, è stato chiarissimo. Allora, adesso una prova difficile. In un minuto cerchiamo di dare delle indicazioni per quanto riguarda, e se è una buona idea, acquistare una scheda internazionale. Come funzionano queste schede? Riusciamo a dare delle indicazioni molto semplici in un minuto, che è quello che ci separa dalla chiusura della trasmissione? Assolutamente sì, le schede internazionali sono uno strumento utilissimo, noi italiani le usiamo poco, i tanti lavoratori stranieri in Italia lo fanno tantissimo. Si tratta di schede telefoniche prepagate, si compone, utilizzabili da linea fissa o dal nostro cellulare, si compone il numero, si inserisce il PIN riportato sulla scheda e possiamo fruire di un traffico prepagato, quindi fino all'ammontare della scheda stessa. Molti di noi ricorderanno le schede telefoniche che compravamo negli anni 80. Sono una cosa molto simile, e consiglio soprattutto per chi deve fare viaggi in località non europee di acquistare per sicurezza una di queste schede e tenerla nel proprio portafoglio, nella propria borsetta, perché in caso di problemi di linea, in caso di problemi di bill shock, quindi con il nostro operatore che prudenzialmente è costretto a bloccarci il traffico voce, queste schede, utilizzabili, ripeto, dappertutto, da un telefono fisso, da una cabina telefonica o dal nostro cellulare, ci permettono comunque di parlare, e quindi sono molto utili, costano poco, 5-10 euro, quindi tagli molto accessibili. Utilizziamole e conosciamole. Grazie avvocato Luongo per essere stato con noi e per la sua chiarezza. Le auguro una buonissima giornata e spero di sentirla presto. A presto. Carmelo Laura Ricelli regia la parte tecnica, Laura Vanossi e Marco Lombardo in redazione. Io torno domani come sempre alle 11, vi aspetto, e se volete scriveteci.